e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Siamo pronte, allora, in qua, già cominciamo bene, se comincia così la puntata non so come finirà. Pronte di nuovo di fronte alla nostra diretta Facebook. Non c'è Marco, che è venuto a farci un live con il suo pannocchietto. Allora, facciamo il domandone. Sapete perché chiamiamo il telefono di Marco, quello con cui ci fa le riprese pre-trasmissione, la pannocchia? 800 24 00 24. Intanto sono disperati, guarda, che sarà il domandone che faremo. Che c'hai, mal di gola? Sì, io tutti i weekend lo so, mi però non mi piace questa cosa qua. Questo è un segno del tuo corpo, anzi del mio, che parla. Perché, che ti sono mancata, perché tutte le volte che non mi vedi per due giorni mi cadi in questo stato di prostrazione. Ma... se vuoi ti regali mio nipoti, con cui ho passato invece 24 ore su 24 negli ultimi tre giorni. Guarda, sì, così ci ammaliamo tutti, mal di gola, raffreddore, e per ci intratteniamo tutti bene. I temi di cui parliamo questa mattina: per quello che riguarda i denari, io mi occupo di un'importante operazione del Ministero dell'Economia, parte proprio in queste ore l'11° collocamento del BTP Italia, una nuova versione con alcune novità rispetto alle ultime, e quindi pronti a parlarne con il Ministero del Tesoro stamattina in Borsa Italiana. Poi nella seconda parte avremo invece un'importante notizia che riguarda il trasporto aereo e la tutela dei passeggeri, a cui così il volo viene cancellato improvvisamente con scarsità di informazioni, nuove tutele che arrivano da Bruxelles. Per tutti questi temi io posso prendere le domande all'800 24 00 24, non so, ma anche al 349 238 6666, dove ci arriva già un messaggio di un ascoltatore che ciao dice? Bellezze, e quindi eccolo, è un buon gustaio. Allora, seconda parte di trasmissione, prendi le telefonate stamattina di un'intolleranza che va molto di moda, la celiachia. Lo facciamo alla vigilia della giornata mondiale e nella settimana della celiachia. Parleremo naturalmente dell'importanza della diagnosi, ma parleremo anche e ci rivolgeremo a chi, pur non essendo celiaco, si è convertito, direi un po' per moda, a una dieta senza glutine, attratto magari dall'idea di perdere qualche chilo, o perché ha scoperto che non introducendo il glutine si sente più leggero e si sgonfia. Ma allora, che fare? 800 24 00 24, parleremo anche di diagnosi nei bambini con un pediatra e con il nostro esperto. Allora, intanto, prima di partire, un'occhiatina alla borsa dobbiamo darla. Abbiamo una partenza contrastata per gli indici europei, è leggermente negativa a Parigi, in calo dello 0,16%, Francoforte sulla parità, Londra più 0,14%, Milano più 0,26%. Abbiamo avuto venerdì una chiusura contrastata a Wall Street col Nasdaq, che comunque continua a correre. Il tema importante della giornata di Piazza Affari è il lancio dell'offerta pubblica di acquisto di Atlantia, la ex autostrade sugli spagnoli aperti. Nascerà questo colosso europeo della rete autostradale, un'operazione che ha un valore di 16,34 miliardi di euro, che appunto Atlantia mette sul piatto per il 100% del gruppo spagnolo. Un'offerta pubblica volontaria che prevede sia un'offerta in contanti di 16,5 euro per ciascuna azione Abertis, con la possibilità per i soci Abertis anche di optare per un corrispettivo in azioni Atlantia. Atlantia, Piazza Affari guadagna il 2,31%. Oggi in realtà, dicono gli operatori, a sostenere la borsa c'è anche il prezzo del petrolio, che è tornato un po' a risalire. Questo è un tema importante, perché l'aumento del prezzo del petrolio fa salire anche l'inflazione, ed è un tema che ci dà lo spunto per parlarne in una bella puntatina. Non c'è nessuno che flirta oggi? Se vuoi qualcuno lo troviamo. No, in realtà l'inflazione flirta molto con il titolo che viene lanciato oggi sul mercato. Allora, adesso vi spiego perché. Noi iniziamo la settimana con un tema a cui abbiamo dato sempre una certa attenzione. È un tema di mercato, è un tema di risparmio, è un tema di investimento, e paradossalmente, Nicoletta, è anche un po' tema di cuore, perché il primo lancio di questo BTP avvenne proprio nel 2012, all'indomani della crisi dello spread, e con l'operazione BTP Italia il Ministero dell'Economia volle riportare l'attenzione dei piccoli risparmiatori italiani sui titoli di Stato, da quali invece in quel momento i grandi investitori internazionali sembravano proprio voler scappare. E allora oggi Oggi parte il collocamento del nuovo BTP Italia, è il numero 11 e noi stamattina vogliamo raccontare le caratteristiche di questa nuova operazione, anche in relazione a come sono andate le precedenti, e quindi ringrazio e saluto subito per averci raggiunto e con piacere appunto che salutiamo la dottoressa Maria Cannata, direttore generale del debito pubblico del Ministero dell'Economia. Buongiorno. Ben ritrovata, grazie ancora. E grazie anche a Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Dottoressa Cannata, siamo ad 11, ormai come ha scritto anche qualche collega nei giorni scorsi, con il nuovo BTP Italia si è completata la formazione per la squadra di calcio, vabbè insomma, esatto, sì, anche questa ho letto nei giorni scorsi. Venerdì, dottoressa Cannata, avete annunciato le condizioni dell'offerta, tasso cedolare annuo minimo garantito dello 0,45% e questa, ricordiamola, è una parte del rendimento perché va considerato che questo titolo ha una remunerazione legata all'inflazione, ecco perché prima facevo le battute sul petrolio. Uno scudo che comincia ad essere adesso un aspetto importante se consideriamo che i prezzi stanno rialzando alla testa. Appunto, alla luce di questo aspetto così importante, cosa vi aspettate da questa operazione? Ma ci aspettiamo che ci sia una domanda abbastanza consistente, guardando come ha aperto la prima ora, ora e mezza sembra abbastanza confortante perché si sono già raccolti circa 470 milioni. La volta scorsa 500 milioni si erano raccolti intorno a mezzogiorno, quindi il ritmo di avvio di questa operazione sembra abbastanza sostenuto. E poi è vero che ci sono i dati dell'inflazione che continuano a registrare un andamento abbastanza crescente, certo non sono cifre altissime, però stamattina l'Istat ha appena rivisto l'indice armonizzato, che non è quello a cui è indicizzato il BTP Italia. Perché è indicizzato al FOI. Al sì. FOI, ma comunque sia il trend è di leggero aumento un po' dell'inflazione un po' su tutti gli indici. Dottor Poletto, anche lei sta vedendo dai circuiti del MOT un certo movimento, una buona fibrillazione appunto in termini di prenotazioni del titolo? Sì, sì, confermo i dati dottoressa Cannata, alle 10.25 avevamo 420 milioni già sottoscritti, che è circa il doppio rispetto all'emissione precedente. Possiamo anche dire che vediamo anche più contratti di size prettamente retail, per cui diciamo che c'è un rinnovato interesse da parte dell'investitore retail su questo strumento che ha avuto grande successo in passato. Qual è la taglia media dell'investitore retail? Quindi che tipo di che ammontare di contratto sottoscrive? Ma retail per modo di dire, diciamo dai 20.000 ai 40.000. Chiaro. Abbiamo visto. No, tra l'altro dobbiamo anche ricordare che abbiamo visto contratti anche da 2.000, 5.000 euro, però teniamo anche conto che c'è stata anche la scadenza di quello esatto. precedente, per cui evidentemente c'era liquidità aggiuntiva rispetto per rinnovarlo. Alla liquidità che c'è ovviamente in questo periodo su nei portafogli, per cui evidentemente anche solo riallocare quanto è stato rimborsato da molti è stato considerato certo. un'opportunità. Adesso andremo anche agli altri termini pratici di questa sottoscrizione, le giornate, fino a quanto è possibile sottoscriverlo, ma dottoressa Cannata, volevo ritornare con lei su una differenza importante rispetto alle ultime emissioni, e cioè che si accorcia nuovamente la scadenza. Il Tesoro è partito con le prime emissioni che duravano 4 anni, poi allungate ad 8, adesso si ritorna intorno a 6. Come mai? Allora, in realtà avevamo allungato, prima di passare ad 8 eravamo già passati al 6. Il passaggio a 8 onestamente l'avevamo fatto perché l'anno scorso i tassi erano così bassi che veramente sarebbe stato molto molto basso il tasso reale che potevamo assicurare senza strapagare rispetto al nostro costo di finanziamento, mantenendo la durata 6 anni. La durata 6 anni ci sembra quella giusta per un tipo di investimento retail piuttosto che quella a 8, e quindi siamo ritornati sul 6. Certo, una scadenza di questo tipo secondo lei espone in che modo il prezzo del titolo ad un eventuale aumento dei tassi di mercato? Insomma, che aspetti devono considerare i risparmiatori che puntano su questa emissione? Questo titolo ha proprio la caratteristica, indipendentemente dalla scadenza, di avere una grande stabilità di prezzi, perché ogni 6 mesi, oltre a pagare il tasso reale applicato al capitale rivalutato, si paga anche la quota di rivalutazione del capitale e quindi ogni 6 mesi riparte da 100 il nominale. Quindi è un titolo che ha una grande stabilità di prezzo, quindi abbastanza indipendente dalla durata. Allora, intanto stavo riguardando un po' se arrivavano delle curiosità da parte degli ascoltatori all'800240024 e molti chiedono appunto di ribadire un po' rispetto anche alle emissioni passate, quali sono state quelle che hanno avuto maggiore successo. È quella, dottor Poletto, magari con una fotografia veloce sul passato la posso rifare con lei, se le ricorda? Ma direi, come diceva la dottoressa Caldata, diciamo che tutte le missioni precedenti hanno avuto un trend anche sul mercato secondario interessante dal punto di vista che ovviamente in condizioni di mercato chiaramente diverse hanno avuto una sostanziale stabilità e prezzi di negoziazione consistenti. Questo dal punto di vista dell'investitore retail è importante anche per poter seguire quotidianamente l'andamento dei titoli, per cui la remunerazione è garantita da questo strumento, tenendo conto anche delle caratteristiche peculiari di questo strumento, il fatto che vengono classati in questa fase senza commissioni di collocamento, nonché col premio fedeltà a scadenza, evidentemente hanno consentito all'investitore più colato di costruirsi un suo portafoglio con questo strumento, che lo consideriamo innovativo sia come distribuzione ma sia anche come indicizzazione, come veniva chiaramente precisato prima, indicizzato l'inflazione italiana, per cui qualcosa che è più familiare all'investitore privato. Intanto, come valore assoluto, ricordo che l'emissione di maggior successo è stata quella del novembre del 2013, che permise al Tesoro di raccogliere oltre 22 miliardi e 200 milioni di euro, seguita da quella successiva, il sesto BTP Italia, aprile 2014, 20 miliardi. Vi chiedo solo un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi ritorno con Maria Cannata e Pietro Poletto sul nuovo BTP Italia, tra poco. Faircam Air and Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Cuore e denari. Torna il BTP Italia, parte proprio in queste ore l'undicesimo collocamento, il titolo indicizzato all'inflazione del nostro paese, creato dal Tesoro ormai 5 anni fa con un occhio particolare per il risparmiatore. Il collocamento del nuovo buono ha le medesime più o meno caratteristiche delle precedenti, a parte la durata che ridiventa di 8 anni, è sottoscrivibile senza commissioni. Dottoressa Cannata, ricordiamo che per i primi 3 giorni c'è la possibilità per il retail appunto di sottoscrivere. Poi il Tesoro, come sempre, si riserva di chiudere anticipatamente l'operazione. A quali condizioni, insomma, vi siete dati un tetto massimo da raggiungere? No, non abbiamo un tetto massimo preciso, però è chiaro che, essendo scaduto un titolo di una dimensione abbastanza importante, deve essere davvero molto significativo l'ammontare che eventualmente ci dovrebbe portare a una chiusura anticipata. Volevo aggiungere, se mi permette, una certo. cosa, perché il fatto di essere ritornati a 6 anni da 8 rende, dà anche più valore al premio fedeltà per chi sottoscrive nella prima fase, questa fase dedicata al risparmiatore retail, il titolo e lo detiene fino a scadenza, perché ovviamente lo 0,4% di premio fedeltà se si applica a un periodo di 6 anni ha un valore maggiore che applicato a un certo. periodo di 8 anni come nelle ultime emissioni precedenti. Una curiosità, dottoressa Cannata, la sua grande battaglia nella gestione appunto del debito pubblico italiano è stato quello di provare ad allungare la durata media del debito, no? Con questa operazione si ritorna un pochino indietro rispetto al suo obiettivo, oppure non ha nulla a che fare rispetto all'impostazione generale che ha dato alla sua gestione, che è stata anche significativa per esempio quando lo scorso anno si è cimentata nel lancio del famoso Matusalem bond di 50 anni, insomma un'operazione molto impegnativa, molto importante. No, non è che è venuto meno il nostro obiettivo. Certo, aver accorciato un po' questo strumento ci spinge ad essere per gli investitori istituzionali sfruttare al massimo la domanda sull'ultralungo, che comunque continua ad esserci anche quest'anno. Si tratta di bilanciare le emissioni tenendo conto che però per questo tipo di strumento, soprattutto se il target rimane l'investitore individuale, risparmiatore, la scadenza a 6 anni è sicuramente più consona. Senta, alla luce del fatto che le banche centrali cominceranno, anche se con molta gradualità, cautela e prudenza, ad essere un po' più severe in termini di politica monetaria, insomma adesso non sapremo che cosa farà Mario Draghi, ma piano piano comincerà, quantomeno non potrà aumentare i tassi, ma a ridurre sicuramente il quantitative easing, eccetera. Secondo lei, ecco, iniziative di questo tipo che partono da Francoforte e queste operazioni, che tipo di relazione hanno, almeno nei termini di ciò che deve sapere un piccolo risparmiatore? Insomma, una politica monetaria un po' più restrittiva, che influenza avrà sul risparmio degli italiani che continuano ancora a puntare sul titolo, sul debito pubblico italiano? Allora, innanzitutto questa sarà molto probabilmente un'azione molto graduale, e nelle stime, per esempio, della spesa per interessi contenuta nel documento di economia e finanza, noi usiamo dei tassi di mercato che questo tipo di aspettative già la inglobano. Per quel che riguarda il risparmiatore, prima o poi c'è da attendersi senz'altro un rialzo dei tassi, per quanto graduale. Avere uno strumento che ogni 6 mesi si praticamente riposizione, si riallinea alle condizioni di mercato e all'andamento dell'economia e dell'inflazione, come il BTP Italia, è di sicuro uno strumento che protegge al massimo l'investitore. Le aste tradizionali, dottoressa Cannati, intanto continuano a manifestare rendimenti in discesa. Proprio settimana scorsa abbiamo sperimentato nuovi record negativi per il bot annuale e appunto altre scadenze. Secondo lei invece quella tendenza lì quanto continuerà? Che sicuramente è salutare per il tesoro italiano, per gli interessi sul debito, però ecco, dal punto di vista di chi investe, guarda ancora con un po' di curiosità, ecco, tanto per dirla con un eufemismo. In realtà sui titoli italiani c'è una divaricazione tra gli strumenti molto a breve, che lei ha ricordato come i bot, che sono rimasti molto bassi, anzi continuano a registrare record minimi, minimi record, ma sui titoli un po' più a medio-lungo termine in realtà si è registrato già un certo innalzamento dei tassi, quindi non è proprio così. La parte a breve è rimasta ancorata su valori negativi e anzi tende addirittura a scendere ancora un pochino, ma sul medio-lungo si sono recuperati livelli più elevati, certo, di quelli dell'anno scorso. No, ma infatti le chiedevo così un po' quanto secondo lei ci dovessimo aspettare ancora in termini di grattare il terreno per le scadenze brevissime su questi valori negativi. Il fatto che comunque la politica monetaria rimanga molto attenta ad evitare che ci possano essere battute d'arresto troppo brusche che creino rimbalzi ai problemi che ci sono creati, farà sì che specialmente i tassi a breve rimarranno, a mio avviso, bassi ancora per un po'. Allora, intanto c'è Zefiro da Vicenza, deve fare la domanda in maniera telegrafica, che vuole sapere tecnicamente appunto come funziona per questo titolo nel caso in cui si registri una minusvalenza. Zefiro, buongiorno. Buongiorno. Velocissimo, grazie. Allora, io volevo chiedere alla signora che ha parlato, sì, ogni 6 mesi il risultato in plusvalenza in conto capitale viene versato in conto, e se per caso c'è una minusvalenza va coperta oppure no? Grazie, Zefiro. Se c'è una minusvalenza, la caratteristica del BTP Italia è che si applica il tasso al valore nominale, non c'è la perdita di valore. Una sorta di floor, no? Come si dice floor, in gergo, esatto, che è un gergo, pavimento, esatto, al di sotto del quale non al andare. Al di sotto del quale non si scende. Dottoressa, finché c'è deflazione, sì, rimane il floor. Poi quando l'inflazione riprende, bisogna vedere se riprende oltre il livello che è già stato assicurato dalla protezione del floor, allora riprende a maturare. Se no, fino al concorso, diciamo, della deflazione del semestre precedente, si applica sempre al valore nominale. Dottoressa Cannati, in 5 secondi, avete in previsione altre emissioni di BTP Italia per quest'anno? Sì, abbiamo appunto a novembre la grossa scadenza del titolo più grande, quello di oltre 22 miliardi, e quindi in autunno ci sarà un'altra emissione. La ringrazio molto per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie, grazie anche a Pietro Poletto. Abbiamo il giornale radio, torniamo tra pochissimo. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Cuore e denari. Volare, oh, cantare. Allora, non avete voluto rispondere al domandone perché chiamiamo il telefono del nostro Marco Lombardo la pannocchia. Allora, io vi faccio un altro domandone. Questo è più facile, vi obbliga. Cioè, perché sai, con quella domanda lì su Wikipedia non trovi la risposta. Questa che faccio adesso, invece, i furboni la trovano. Mamma mia. Carmelo ci fa venire un infarto prima o poi. Vabbè, ci abbiamo il cardiologo a portata, certo, di mano. Ma poi ormai sappiamo. Allora, tu lo sai dov'è il Suriname? Allora, io avevo ipotizzato. Posso dire? Sì, l'ipotesi la puoi dire. Ecco, l'Africa. Come però, tutti. Come tutti. Perché non è mi, in Africa? Mi sentivo, era un suono un po'. Esatto. Però non è l'Africa, amici. Esatto. Quindi l'Africa la eliminiamo. Allora, perché parliamo di questo Suriname? Perché proprio grazie a questo signore, o insomma, per sua sembra sfortuna. Sembra anche un piatto giapponese, vero? Guarda, quello che vuoi. Però non è in Giappone. No. Ecco. Allora, questo signore qua dai Paesi Bassi doveva andare in Suriname. Praticamente che cosa è successo? Che il volo gli è stato cancellato. Non nei tempi che lui ha gradito. E quindi ha attivato tutto il contenzioso possibile ed immaginabile ed è arrivato addirittura ad una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha detto che la compagnia aerea deve indennizzare per volo cancellato i passeggeri che non sono stati informati tempestivamente. Questo vale non solo se il contratto è stato stipulato direttamente fra passeggero e vettore, quindi compagnia aerea, ma anche se il volo viene sottoscritto, prenotato e siglato, appunto stipulato attraverso un'agenzia di viaggi online, e quindi anche se i biglietti vengono comprati online. La pronuncia, lo dicevo, viene dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha detto: il vettore aereo è tenuto ad indennizzare il passeggero se non può dimostrare di averlo informato della cancellazione del volo più di 2 settimane prima dell'orario di partenza, del giorno della partenza. E allora, tosto è questo signore, non capito? Perché tante volte non ci andiamo teneva avanti ad andare nel ecco, Suriname, perché, esatto, perché diciamo ma no, ma invece determinato. Bravo, e esatto, si è portato a casa anch'io, infatti, il risultato. È un po' come i ciabattini con le scarpe rotte, noi parliamo poi alla fine no, tendiamo anche qua da questo microfono non è io tra l'altro proprio maggio, il mese del naso, Mariano, dell'apparato respiratorio, con i nostri esperti, continuate a scrivere. Sei piena di raffreddore. E io sono malata, marcia, va bene, comunque, va bene. Non importa. Sta benissimo Lorenzo Asuni di Air Help. Buongiorno Lorenzo, grazie di essere con noi questa mattina. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Buongiorno. Facciamo un po' le ciarlatane in onda, ma Lorenzo avrà pazienza, ma è qua invece per aiutarci a capire qual è a questo punto la ricaduta di questa iniziativa della Corte di Giustizia europea anche in termini pratici. Allora, peraltro, ricordiamola la storia di questo cittadino che doveva viaggiare andata e ritorno dai Paesi Bassi al Suriname con un volo della compagnia aerea SLM. Il biglietto era stato prenotato attraverso un'agenzia di viaggio online. Decollo del volo di andata previsto il 14 novembre del 2014. Pensa quanti anni ha portato avanti questa battaglia. Non ha mollato, Il 9 ottobre la compagnia gli ha comunicato, comunicava all'agenzia di viaggi la cancellazione di questo volo. Il 4 novembre 2014 il cittadino ha ricevuto un messaggio di posta elettronica dall'agenzia di viaggi che lo informava del fatto 10 giorni prima del volo. Asuni, allora, che cosa, Lorenzo, posso darti del tu? Assolutamente sì. Cosa ne pensi appunto di questa pronuncia? Che effetto è destinata ad avere, secondo te, nell'ambito del contenzioso che purtroppo molto frequentemente si scatena, perché insomma si vola tantissimo, i cieli sono affollatissimi di voli e quindi anche le disdette causa forza maggiore sono frequenti, ma questa pronuncia nello specifico secondo te che effetto avrà? Diciamo che ha posto chiarezza su un fatto, quello che è, diciamo, il passeggero, in sostanza anche prenotando attraverso un'agenzia online, come possono essere le migliaia che ormai ci sono, deve essere comunque informato dall'agenzia online o comunque dalla compagnia aerea della modifica del proprio volo. In passato diciamo che c'erano delle questioni aperte per il fatto chi dovesse avvisare il passeggero, certo, se la compagnia aerea o l'agenzia online. In questo caso invece si è messa la chiarezza, nel senso l'agenzia online deve avvisare il passeggero e la compagnia aerea deve controllare che il passeggero sia stato avvisato a dovere, se no deve a sua volta, diciamo, avvisare comunque il passeggero. Perché in questo caso praticamente la compagnia ha avvisato subito l'agenzia online, l'agenzia online invece ha tergiversato, non ha informato tempestivamente il passeggero. Poi non si capisce per quale motivo, se tu la notizia ce l'hai, che cosa ti costa informare immediatamente, esatto, no? Secondo te questo ritardo a che cosa è ascrivibile? Boh, non lo sapremo mai. In sostanza è stato il passeggero è stato avvisato con solo 10 giorni d'anticipo. Teoricamente la legge, non teoricamente, in pratica la legge prevede invece 14 giorni d'anticipo per modifica, cancellazione dei voli, per cui la compagnia aerea può, diciamo, operare in questa maniera. In questo caso però la compagnia aerea si è disinteressata del fatto che il passeggero sia stato avvisato o meno dall'agenzia online, nonostante riceva comunque la compagnia aerea tutti i dati del passeggero, quindi possa andare direttamente dal passeggero e dirgli: abbiamo modificato il tuo volo, abbiamo cancellato il tuo volo. È una situazione veramente comune, guarda. Certo. Senti Lorenzo, ma la compagnia che ha fatto il suo dovere e ha comunicato all'agenzia online della disdetta del volo ha anche l'obbligo di verificare se a sua volta la compagnia informa tempestivamente tutti i passeggeri oppure non è un obbligo, un dovere che ha? Diciamo che in questa situazione è un po' confusa, perché teoricamente la compagnia aerea dovrebbe sempre informare i passeggeri di ogni modifica o cancellazione del proprio volo con 14 giorni d'anticipo. Questo per carta dei diritti dei passeggeri, che tutela i passeggeri in queste situazioni. Se il passeggero non è avvisato per tempo, ha diritto ad essere risarcito fino a 600 euro ed è un minimo di 250 certo. euro. Ed è una situazione che è molto comune, questa casistica diciamo non è molto particolare, ma cancellazioni e ritardi aerei nell'ultimo anno, nel 2016, sono state circa 600.000 persone quasi affette da questo problema. Ah, però. Senti, in questo caso la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dice la compagnia aerea deve indennizzare per volo cancellato i passeggeri non informati tempestivamente, ma in che misura deve indennizzare? Il volo pieno? C'è anche un indennizzo ulteriore rispetto al disagio subito? Magari qualcuno ha dovuto cancellare le vacanze, magari questo signore, insomma, tra i Paesi Bassi e il Suriname non ha più potuto viaggiare e quindi c'è anche magari il riconoscimento di un danno ulteriore, oppure ci si limita al rimborso del volo integrale? Sì, diciamo che noi siamo nati con AirHelp proprio per esatto. cercare di aiutare le persone a capire i loro diritti, perché non c'è conoscenza su questi diritti. Quello che manca è proprio la conoscenza di cosa abbiamo diritto in queste situazioni. In queste situazioni abbiamo diritto a un risarcimento che va dai 250 ai 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. Se poi, oltre al fatto che il volo è in ritardo e cancellato, abbiamo altre problematiche come il volo è stato rimandato al giorno dopo, la compagnia aerea deve fornirci tutta l'assistenza necessaria, come chiamate ai familiari, come hotel, come pasti. Tutte queste cose le persone le ignorano, si accontentano magari di voucher, si accontentano di un rimborso, ma quello che in realtà hanno diritto è tutte queste cose più un risarcimento. È quello che infatti noi stiamo cercando di fare con AirHelp, è informare i passeggeri, che sono 600.000 in Italia, quindi puoi immaginare che una fetta enorme di passeggeri, e solamente l'1% di questi passeggeri conosce questo diritto e lo fa rispettare. Certo, allora quindi insomma se volete qualche informazione in più rispetto, se siete magari dei viaggiatori assidui, se volete avere qualche informazione in più rispetto a tutta la rosa molto ampia di tutele che vi spettano come passeggeri di volei, e naturalmente magari conoscete già per sommi capi la normativa, ma non sapete che in realtà molto spesso avete diritto anche a qualcosa in più, andate sul sito di AirHelp e potete avere un quadro chiaro. Perché mi sento l'eco? Perché stiamo decollando. Stiamo decollando. Lorenzo, l'ultima domanda: una volta che una persona appunto è rimasta malcapitata protagonista di una disavventura aerea, come in questo caso, in realtà il nostro passeggero qua non è più partito perché il volo è stato cancellato, lui non ha avuta questa informazione in tempi corretti, entro quanto può chiedere l'indennizzo e, come dire, attivarsi con il contenzioso con la compagnia aerea, anche magari grazie al vostro aiuto? Questa è un'altra questione che comunque è ignorata, nel senso, il passeggero ha fino a 3 anni per far valere il proprio diritto. Molte persone pensano che non lo faccio subito, non lo posso più fare, invece entro 3 anni dal proprio volo posso richiedere il mio risarcimento. Noi abbiamo reso il processo semplicissimo: si va su www.aerelbo.it, si inserisce aeroporto di partenza, aeroporto di destinazione, la compagnia aerea in 2 minuti si scopre quanto si è diritto. C'è un ascoltatore che chiede in realtà per voli che partono, arrivano, adesso non abbiamo capito bene, con oltre 4 ore di ritardo, anche su tutto il tema del ritardo potete intervenire, Lorenzo? Assolutamente sì, diciamo che il ritardo è il tema principale, ecco, il ritardo e cancellazioni. Infatti, tutte le e quindi persone che hanno un volo in ritardo o coincidenze che saltano e disagi di questo esattamente tipo. Bene, allora noi abbiamo terminato. Intanto grazie per averci fatto sapere qualcosa di più rispetto a questa pronuncia della Corte di Giustizia Europea. Diritti dei passeggeri sempre più rispettati, naturalmente. E adesso andiamo invece alla situazione di chi ha la celiachia. Saltiamo di palo in frasca, però sì, insomma. Direi che torniamo con i piedi per terra. Ah, ti piace così? Sì, esatto. E iniziamo la settimana, come anticipato, occupandoci di un tema di grande attualità. Quasi potrei dire, Deborah, di una moda. L'intolleranza permanente al glutine, meglio nota come celiachia. Bene, sempre più persone, pur non essendo celiache, pur non avendo ricevuto quindi una diagnosi, si comportano come se lo fossero. E cosa fanno? Escludono dalla loro dieta il glutine. Allora, noi come possiamo chiamarli? Celiaci immaginari o per scelta o per moda? Decidete voi e diteci soprattutto se avete bandito anche voi il glutine, perché l'avete fatto, e spinte da che necessità e con che risultati, oppure se magari ci state pensando. Naturalmente vi invitiamo a chiamarci anche se invece avete ricevuto una diagnosi, se quindi siete avete un'intolleranza permanente al glutine, o se lo sono i vostri bambini. Parliamo di celiachia in occasione della giornata che si celebra nel mondo domani, e in questa settimana i clinici, i ricercatori dell'AIC, che è l'Associazione Italiana Celiachia, con il patrocinio anche dell'Associazione Nazionale Dietisti, hanno fatto squadra, si pongono proprio l'obiettivo di informare e sensibilizzare, anche con tanti appuntamenti anche gustosi, sulla celiachia e soprattutto sulla dieta, che per un celiaco è l'unica e vera terapia. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Marco Silano, direttore del Dipartimento Nutrizione dell'Istituto Superiore di Sanità e anche coordinatore del board scientifico dell'Associazione Italiana Celiachia, che è tornato a trovarci. Buongiorno, dottor Silano, benvenuto, bentornato. Grazie, buongiorno. Allora, è una bella settimana, una settimana importante. Che cosa vi aspettate, dottor Silano, se posso chiederglielo? L'obiettivo di questa settimana è concentrare la comunicazione sul fatto che la dieta senza glutine è una vera e propria terapia salvavita per i soggetti celiaci e non va assolutamente banalizzata. Non è una moda, non è un modo per stare meglio, per essere più belli, per essere più performanti se non si è celiaci. Quindi chi non è celiaco non ha assolutamente nessun vantaggio dal seguire la dieta senza glutine. Allora, 800 24 00 24, dottor Silano, alcuni ascoltatori appena hanno sentito la parola glutine e quella celiachia si sono subito attivati. E ci stanno raccontando le loro esperienze. Intanto vorrei proporre ai nostri ascoltatori, sicuramente sanno di che cosa stiamo parlando, ma per fare, come dici tu, un biglietto da visita, ho pensato di fare una Vox Populi. Sentiamo che cosa Ottimo. Si dice. La che? No, non lo so. No, proprio niente, no, no. Mi spiace. Deve essere un'intolleranza al glutine, se non erro. Penso che pane, pizza, pasta normale non si può mangiare. È una malattia di solito sorge con i bambini ed è, se non sbaglio, l'allergia alla farina, farinacei, al grano. Malattia genetica, però non sono sicuro. Ci sono prodotti apposta senza glutine che vendono credo in farmacie. Allora, queste sono le risposte della nostra Vox Populi. Abbiamo chiesto che cos'è la celiachia, dottor Silano. C'è chi un'idea più o meno se l'è fatta, chi la conosce per aver visto nei supermercati, in farmacia, prodotti destinati ai celiaci. Ha sentito un po' la nostra Vox Populi, intolleranza, allergia, malattia genetica. Chi ci è andato più vicino? Vogliamo dare una definizione prima di aprire il microfono ai nostri amici da casa? Sì, certo. La celiachia è un'enteropatia autoinfiammatoria con dei tratti di autoimmunità che è scatenata dal glutine in soggetti che sono geneticamente determinati. Tradotto in parole semplici, perché questa lei ci ha dato proprio la definizione perfetta in medichese, ma in sostanza possiamo dire che è un'intolleranza permanente al glutine, dottor esatto. Silano? La sua definizione è perfetta, è un'intolleranza che dura tutta la vita, ahimè, al glutine. In pratica, possiamo paragonare il glutine ad una miccia che infiamma l'intestino e il nostro sistema immunitario da difensivo si trasforma in aggressivo? Certamente. Il glutine così ce la vediamo. Il glutine è proprio la miccia che una volta che arriva nell'intestino di un soggetto celiaco scatena quella che io chiamo la tempesta infiammatoria perfetta. Cioè si attivano tutti i sistemi del sistema immunitario che distruggono l'intestino del soggetto celiaco. Dottore, allora affronteremo poi i casi delle persone che stanno aumentando in modo significativo, che decidono per propria scelta di eliminare il glutine dalla loro dieta perché si sentono magari meno gonfi o si sentono meglio, e discuteremo su questo. Ma ci sono delle persone che sono celiache senza saperlo. Allora mi chiedevo, un celiaco non diagnosticato o diagnosticato con molto ritardo, dottor Silano, che cosa rischia? Se un soggetto celiaco continua ad assumere il glutine, innanzitutto sta male, perché continua ad avere quei segni e quei sintomi che sono dovuti all'attivazione del sistema immunitario, che parte dall'intestino ma che in realtà può interessare tutto l'organismo. Inoltre, a lungo andare, ma qui si tratta di esposizione per decenni e per decenni, in un ridotto numero di casi, ma è comunque un rischio che bisogna conoscere, i celiaci che continuano ad assumere glutine possono andare incontro ad alcune complicanze, alcune anche molto gravi. Si va dalla celiachia refrattaria a un'infiammazione cronica che non passa più neanche poi se si toglie il glutine, fino a delle forme proliferative. Allora, a volte però, dottor Silano, passano anni prima di arrivare alla diagnosi. Per questo, dottore, io vorrei parlare con lei anche di alcuni disturbi che non hanno nulla a che fare con l'intestino, no? L'abbiamo citato perché abbiamo paragonato il glutine ad una miccia che infiamma l'intestino, e quindi si può pensare a qualche effetto che ha qualche disturbo intestinale. Ma ci sono anche altri tipi di disturbo che nulla hanno a che fare con l'intestino, ma che potrebbero creare il sospetto nell'adulto. Ce li ricorda? Sì, come ho detto prima, la celiachia nasce nell'intestino come infiammazione, ma può coinvolgere qualsiasi organo o qualsiasi apparato dell'organismo. Ormai sappiamo che l'anemia, cioè la bassa emoglobina nel sangue, è un sintomo di celiachia. L'aumento degli enzimi del fegato è un sintomo di celiachia. È un sintomo di celiachia, per esempio, la perdita dei capelli, la presenza frequente di piccole lesioni ed ulcere del cavo orale, anche la mancanza dello smalto dei denti può essere causato dalla celiachia. Inoltre, molte donne riescono finalmente a fare diagnosi perché hanno difficoltà a rimanere incinta o hanno una poliabortività spontanea ricorrente senza altra causa. Quindi allora, così vedere, abbiamo risposto, credi, almeno mi auguro, ma se no lo invitiamo a chiamarci, un ascoltatore che al 349-238-6666 ci scrive: io non ho capito che sintomi abbia o che male abbia un celiaco, ha diarrea, dolori addominali, anche altro. Siamo partiti parlando dagli adulti, adesso però vogliamo, come anticipato, parlare di bambini. Gli ultimi dati ci dicono che la celiachia è aumentata di 5 volte tra i bambini di tutto il mondo. Che cosa può aver determinato questa impennata. Abbiamo dei sistemi di diagnosi più sofisticati, più precisi. Ne parliamo col dottor Francesco Valitutti, medico che lavora nella gastroenterologia pediatrica dell'Umberto I di Roma, diretto dal professor Salvatore Cucchiara. Buongiorno dottor Valitutti e benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Allora, dottor Valitutti, poi continuiamo insieme a lei al dottor Silano, ma prima dei mercati facciamo un apriamo la parentesi sui bambini, perché certo, a lungo, per lungo tempo, la celiachia è stata considerata una malattia prettamente pediatrica, no? Sì, diarrea, sì, arresto della crescita, ecco, della celiachia che è stata individuata inizialmente nei bambini. Ecco. Noi oggi stiamo vedendo una vera e propria epidemia di celiachia, come avrà trattato anche Marco Silano in precedenza. Si tratta di un aumento della frequenza dei celiaci che non è spiegabile soltanto con le nostre migliori capacità di fare diagnosi e la migliore conoscenza del problema da parte degli addetti ai lavori. Si stima un numero di casi di celiachia in età pediatrica compresa tra l'1 e il 2% della popolazione generale, di cui anche 4 quinti rimangono comunque non diagnosticati. C'è un aumento reale di prevalenza, una maggiore insorgenza di nuovi casi. Che cosa determini ciò? Non è noto. Sono stati chiamati in causa cofattori ambientali come le infezioni virali nei primi anni di vita, l'alterazione della flora microbica intestinale, l'alimentazione nel primo anno di vita. Tutte ipotesi che però al momento non sono confermate. La verità è una sola. La risposta a questa domanda, quando ci sarà e se ci sarà, sarà meritevole di un premio Nobel per la medicina. Allora, noi ci fermiamo qui, andiamo a sentire che cosa succede ai mercati. Hanno qualche intolleranza permanente a qualcosa? Un po' allergici? Sì, sono sempre un po' allergici alle cattive notizie. E poi c'è anche da rispondere sul Suriname, non è che ce lo possiamo dimenticare. Non è un piatto giapponese, non è un paese dell'Africa dove sarà, e soprattutto è il anche paese dove sarebbe originario un grande calciatore di cui ne sentiamo parlare da un po', Gullit. Dai. Adesso abbiamo aggiunto anche questa informazione. Dottor Silano se la sa, e anche dottor Valitutti, non dite nulla. Andiamo a sentire i mercati. Poi ritorniamo di nuovo insieme. Glutine, amico o nemico? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Eccoci qui, siamo tornati. Dal Suriname, dovete dircelo all'8024-0024, ma raccontateci anche che rapporto avete con il glutine, se avete ricevuto una diagnosi di intolleranza permanente al glutine, oppure se avete di vostra iniziativa eliminato il glutine dalla vostra dieta per averne qualche vantaggio. Se i vantaggi li avete avuti, raccontateceli e soprattutto spiegate perché l'avete fatto. Non uno ma due oggi i nostri ospiti. Abbiamo il dottor Marco Silano, che è direttore del Dipartimento Nutrizione dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottore, è ancora con noi? Sì. E con il dottor Francesco Valitutti, che è medico, lavora nella gastroenterologia pediatrica dell'Umberto I di Roma, che è diretta dal professor Salvatore Cucchiara, a cui affideremo i bambini. Dottor Silano, molte domande gliele farò subito sentire e sottoporrò naturalmente anche il dottor Valitutti. Ma come si arriva ad una diagnosi? Quali sono gli esami che permettono di vedere esattamente, di capire bene che cosa sta succedendo? Allora, la prima cosa che serve per guidare una diagnosi di celiachia sono i sintomi o i segni, per cui qualora il medico riferisce i segni o i sintomi che il paziente lamenta alla celiachia, deve indirizzare il paziente a fare un semplice prelievo di sangue. Sì. Questo prelievo di sangue poi verrà analizzato per degli autoanticorpi che si chiamano anticorpi antitransglutaminasi. In caso di positività il sospetto clinico è alto, per cui il paziente poi viene avviato a fare la biopsia duodenale, cioè il prelievo di un piccolo pezzo di intestino in corso di una duodenoscopia, il cui aspetto istologico poi verrà analizzato per vedere se ci siano le lesioni caratteristiche della celiachia. Questo, dottor Valitutti, è l'iter che viene proposto anche ai bambini o ai bambini viene in qualche modo dato la possibilità di scansare qualche altro esame? Dunque, per i bambini il protocollo è leggermente diverso, è stato modificato dalla Società Scientifica di Gastroenterologia Europea 4 anni fa. Ovviamente anche per i bambini si parte dai sintomi, eccezion fatta per i familiari di primo grado di celiaci, cioè i bambini che nascono in famiglie dove c'è già un celiaco, che vengono screenati a prescindere, insomma anche asintomatici, e per le categorie a rischio che vanno screenate anche in assenza di sintomi. Le ricordiamo? Sì, senz'altro, sono sicuramente le malattie autoimmuni, il diabete mellito di tipo 1, la tiroidite autoimmune e alcune condizioni genetiche come la sindrome di Down. Gli anticorpi che noi dosiamo sono sempre gli anticorpi antitrasglutaminasi di classe IgA, dosiamo al contempo anche le IgA sieriche. E quindi attraverso il prelievo del sangue, mi scusi, ho bisogno di capire in modo molto diretto e semplice. Prelievo di sangue, ci sono degli anticorpi che vengono utilizzati nei bambini sotto i 2 anni di vita. Il protocollo diagnostico attuale prevede l'omissione della biopsia intestinale se ci sono dei sintomi fortemente suggestivi, se gli anticorpi antitrasglutaminasi hanno un valore elevato, se gli EMA, gli anticorpi antiendomisio, sono positivi e se c'è una genetica che conferma, insomma, che predispone. Allora, dottor Valitutti, il dottor Silano ci ha parlato di sintomi che possono creare il sospetto nell'adulto della celiachia, che non hanno nulla a che fare, sembrano non aver nulla a che fare con l'intestino. Nei bambini la diagnosi, nei bambini molto più piccoli, sembra più semplice, più immediata, ma a mano che il bambino cresce, diventa ragazzetto, i sintomi sono molto simili a quelli sfumati degli adulti, è corretto? Quindi sfumati, ai genitori, all'ascolto, in modo molto chiaro, semplice, diretto, senza creare laddove non ci sono necessariamente dei problemi, che quali sono i segnali che il genitore dovrebbe tenere, conoscere, per eventualmente riferirlo al pediatra? Perché certo, sicuramente i sintomi gastrointestinali quali diarrea cronica, arresto della crescita, ecco, in pediatria noi ci confrontiamo con la valutazione dinamica della crescita, che è fondamentale nella valutazione del bambino, perché i bambini non parlano ma crescono. L'anemia sono segni importanti, per cui la celiachia dovrebbe essere sempre indagata dal pediatra. Altri sintomi e segni meno evidenti devono comunque essere presi in considerazione, pensiamo ad esempio ai dolori addominali, la stanchezza, il gonfiore addominale. E poi vale un po' il discorso dell'adulto, il malassorbimento di micronutrienti e l'attivazione dell'infiammazione sono responsabili poi di un'ampia gamma di sintomi che vanno dalla stipsi al vomito, alla dermatite herpetiforme, anche nel bambino riduzione della mineralizzazione dell'osso. E poi il vantaggio orali. Adesso che se ne parla così tanto è che magari il sospetto viene, poi viene assolutamente così, rientra, ma adesso di celiachia si parla sempre di più, anche perché, e me lo stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori, tutti i supermercati hanno degli scaffali dedicati sempre più a prodotti senza glutine. E arriviamo a loro, Alessandra dalla provincia di Livorno e poi Riccardo dalla provincia di Milano. Alessandra, buongiorno, l'ho fatta attendere ma avevo bisogno di inquadrare un po' il problema per arrivare proprio alla sua storia. Buongiorno. Allora, io ho 55 anni e nel 2002 mi fu diagnosticata una tiroidite di Hashimoto con dei nodoli e allora, facendo anche delle ricerche su internet, capii che dovevo fare il test di intolleranza al glutine e praticamente non ero celiaca. Poi nel 2005 ho avuto la diagnosi di fibromialgia e quindi anche sempre facendo ricerche questo glutine, insomma, rientrava sempre tra i fattori a rischio che davano problemi a chi aveva queste patologie autoimmuni. Ora, quindi ho passato periodi altalenanti lasciando il glutine, riprendendolo, poi io adoro la pizza, quindi lo credo. Si può vivere. Cioè la pizza celiaca fa schifo. E lei quando toglie il glutine sta meglio? Sta meglio, allora ecco. Volevo dire questo, allora io ho fatto una visita 3 mesi fa. Senta, Cisanello, allora Alessandra, scusi, io non posso raccontare proprio tutto in onda la sua storia con tutti i dettagli delle date e dei passaggi. Prendiamo spunto dalla sua situazione per sottoporla ai nostri esperti, se vuole poi ci scrive. Dottor Silano, allora, ci sono delle situazioni limite, immagino, no? Valori che sono vicini alla soglia ma che non sono ancora segno di intolleranza permanente, e poi c'è il quadro della persona, nel caso di Alessandra ce l'ha ben specificato. In questi casi come si procede, dottor Silano? Allora, mai togliere il glutine se non viene fatta diagnosi certa di celiachia, perché tutti gli esami di cui abbiamo parlato prima io e il dottor Valitutti, qualora si tolga il glutine, si normalizzano. Per cui se prima non è stata fatta una diagnosi certa al paziente mentre mangiava il glutine, praticamente una volta che si toglie il glutine si perde la possibilità di fare diagnosi, perché se i test vengono negativi non si sa se vengono negativi perché non c'è la celiachia o perché, come la signora, ha tolto il glutine. Certo. Inoltre bisogna tener conto che la celiachia può avvenire a qualsiasi età. Una volta si pensava che era una malattia esclusivamente pediatrica, adesso per esempio qui in istituto abbiamo avuto delle segnalazioni di diagnosi fatte dopo i 70 anni di età. Ma non sono delle diagnosi tardive, è proprio la malattia che si manifesta improvvisamente nella nostra vita. Esatto, non c'è un'età precisa a cui la malattia si manifesta, la malattia si può manifestare con i sintomi a qualsiasi età. Allora, mettiamo di noi, se mi posso permettere, che magari tardiamo la diagnosi. Tenga conto che i nostri dati dicono che la diagnosi media è ancora 6 anni dalla comparsa del primo sintomo, però è pure vero che la celiachia può comparire a qualsiasi età. Allora, noi ci fermiamo perché andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Poi abbiamo Riccardo dalla provincia di Milano che ci sta aspettando, e i consigli naturalmente dei nostri esperti. E poi faremo anche un saltino in cucina, Deborah. Ma volentieri. Perché ci sono degli show cooking in occasione della settimana, e allora avremo una food blogger che ci darà una ricettina. A tra poco. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Cuore e denari. Prima il biologico, poi il naturale, quindi il vegano e ora il no glutine. Ci sono delle persone che devono seguire una dieta priva di glutine perché questa è la loro terapia. Parlo delle persone che hanno ricevuto una diagnosi di intolleranza permanente al glutine, ma ci sono delle persone che tolgono il glutine dalla loro dieta per stare meglio, hanno questa sensazione. Abbiamo in linea con noi due esperti a cui facciamo sentire la domanda di Riccardo, che ci chiama dalla provincia di Milano. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei dove si colloca? Io sono celiaco praticamente dallo svezzamento, dalla nascita, ma non chiamo per me, ma per la mia compagna, per raccontare la sua storia. Io, avevo una dermatite herpetiforme menzionata e sì, ho fatto tutta la frassi di diagnosi, compresa la biopsia intestinale. Sì, perché allora si faceva, adesso è stata tolta, 4 anni fa, ci diceva il dottor Valitutti. E invece la sua compagna? Esatto, noi siamo in questa situazione in cui lei sta male quando assume il glutine, sta male per delle settimane, per dei mesi, va a fare gli esami non risultano mai positivi. Ma lei lo mangia o toglie il glutine, come diceva il dottor Silano? Allora, non lo toglie, però oramai siamo arrivati dopo mesi dei tentativi di diagnosi a fare la scelta di toglierlo, perché è inutile stare male per diagnosticare. Però togli e metti, questi un po' come facciamo quando ci mettiamo le creme sulla pelle perché vediamo delle piccole eruzioni, poi il dermatologo non capisce più nulla. Allora, e quindi voi siete fermi lì. Dottor Valitutti, si parla anche di una sensibilità al glutine non celiaca, e del gruppo del professor Fasano ne avevamo parlato. È una entità clinica differente rispetto alla celiachia, su cui ancora la comunità scientifica sta discutendo, perché non ci sono proprio degli esami che permettono di arrivare ad una diagnosi certa, per cui è ancora un po' nel limbo. di fatto è ancora una diagnosi di esclusione, perché manca un marcatore diagnostico evidente. Come ha detto, è un disturbo di recente caratterizzazione, con una sintomatologia gastrointestinale molto specifica, gonfiore, diarrea, digestione difficoltosa, a cui si possono talvolta associare sintomi vaghi quali cefalea, dolori muscolari, articolari, eczema, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, formicolia agli arti. Tutti i soggetti con tale condizione sembrano beneficiare di una dieta senza glutine e ripresentano la sintomatologia ogni qualvolta il glutine viene reintrodotto. Ovviamente prima di avviare una dieta senza glutine per un sospetto di sensibilità al glutine non celiaca, bisogna aver escluso in maniera accurata la celiachia con i test anticorpali di cui parlavamo, che vanno fatti sempre a dieta con glutine. Dieta con glutine, come sottolineava il dottor Silano. Che vuole aggiungere, dottore? Dottor Silano. Sì, questo della gluten sensitivity, infatti, è una questione scientificamente ancora molto dibattuta. Il Ministero della Salute ha anche una posizione ufficiale su questa condizione, che rappresenta ancora una zona grigia e la cui esistenza gran parte anche della comunità scientifica addirittura nega. Per cui comunque è ancora qualcosa in corso, che fa, lavori in corso. Ma io non ho capito e vorrei una risposta secca da entrambe. Se io tolgo, io non sono celiaca, tolgo il glutine dalla mia dieta, allora rischio qualcosa? È un problema di cuore o di denari, nel senso che è un problema di salute oppure è un problema solo di denari, perché magari per sostituire nella mia dieta aggiungo degli alimenti senza glutine? Silano, sì, rischio qualcosa? No, anzi, il glutine è una proteina estremamente difficile da digerire. Perché noi non abbiamo gli enzimi adatti per digerire il glutine, per cui chiunque, anche non celiaco, toglie il glutine dalla dieta si sente meglio, perché non si sente più gonfio, non ha più la pancia gonfia, però è solo un benessere legato quindi a un comfort intestinale. Certo. Rischia, in realtà non c'è né vantaggio né svantaggio, però va a togliere dalla dieta qualcosa che di per sé non serve, ma è insieme poi ad altri, negli altri alimenti, a dei nutrienti che di cui magari posso privarmi. Dottor Silano, poi andiamo in cucina. Intanto saluto subito Marcella Calabrese, perché ciao, si può, ciao Marcella, si può diventare anche celiaci per amore, tu sei, allora, sposandone uno, brava, davvero. Allora stai lì Marcella, perché i minuti corrono, ma volevo sentire dottor Silano, chi decide perché di eliminare il glutine, perché togliendo il glutine si sente meglio, meno gonfio, più attivo, non gli viene mal di testa, perde quelle sostanze, quei nutrienti che potrebbero essere contenuti negli alimenti che hanno il glutine, ma di danni per la salute possiamo dire ce ne sono? No, danni diretti per la salute no, però fa una dieta si priva, quindi si priva di qualche cosa quando non ce ne sarebbe bisogno. Esatto, ecco. Oltre poi a banalizzare invece una terapia che è una dieta che è una vera e propria terapia. Ecco, ricordiamo che per le persone che invece hanno ricevuto una diagnosi, come il marito giusto di Marcella, ormai da 12 anni, ecco, questa la dieta senza glutine è una vera e propria terapia. Marcella, tu farai degli show cooking al mercato Trieste di Roma, lo dico ai romani, ecco, in questa settimana, e per noi hai preparato una ricetta di cui metteremo poi i dettagli naturalmente sul nostro sito, che ci potresti raccontare in un minuto. Ci metto molto cuore e pochi denari, perché gli ingredienti sono semplicissimi e, come saprete, insomma, la ricetta la prepareremo proprio dentro un mercato, per sensibilizzare alla semplicità e al divertimento nel cucinare senza glutine. Si cuociono semplicemente le zucchine a julienne in padella con la cipolla, io ne metto 240 grammi. Dopodiché, una volta già cotte, si aggiunge 160 grammi di farina, 80 ml di latte, 50 ml di olio extravergine di oliva, sale, pepe, un po' di parmigiano, una botta di frullatore, come si dice a casa mia, e si infornano a 180 gradi in forno al caldo per circa 15 minuti. Sono dei muffin di zucchine molto buoni, salati, che non fanno assolutamente sentire la mancanza né del glutine né dell'uovo. E che vanno, e quindi preparati molto facilmente. Grazie, a domani. Okay. Un abbraccio a tutti, grazie, noi ci sentiamo domani.